2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 2 maggio 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024@radio24.it, il nostro sito internet www.radio24.it, lì trovate le pagine di 2024 e, come vi ricordo ogni settimana, potete scaricare il file MP3 della nostra trasmissione e ascoltarvi la nostra puntata quando preferite, attraverso lo strumento che preferite, il vostro computer, il lettore di file MP3, un telefonino. Oramai molti telefonini sono anche lettori di file MP3. Come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast, quindi con questo sistema, un nuovo modo per erogare contenuti audio nel nostro caso, ma per altre aziende, per altre società, contenuti video, avete la possibilità di appunto scaricare automaticamente il file della nostra trasmissione. Tutti i dettagli sono online oppure potete inviarci un messaggio di posta elettronica. Questa settimana vorrei iniziare con le parole di Viviane Reding, che è il commissario europeo alla società dell'informazione e i media. Many of you probably have dreamt of being such a proficient computer user that you could crack the security system of your school or university. La Reding parla di sicurezza informatica e dice: molti di voi, forse alcuni di voi, avranno sognato da giovani di fare gli hacker, di entrare nel sistema informatico della scuola per scoprire le domande del prossimo esame, oppure per cambiare di qualche zero il proprio conto in banca. Beh, oggi, dice la Reding, le cose non stanno più così e sono diventate talmente seri che quando parliamo di attacchi informatici parliamo di sistemi in mano alla criminalità organizzata. A tool in the hands of organized crime. Questa dunque è la voce di Viviane Reding nel suo ultimo videomessaggio messo in rete. I videomessaggi di Viviane Reding sono molto chiari, molto interessanti, non solo per chi si occupa di rete, di internet, ma per tutti coloro che sono un po' curiosi. La Reding è molto attenta all'evoluzione tecnologica e, se vogliamo, anche molto moderna, quindi i temi che affronta settimana dopo settimana sono sicuramente di grande interesse. In questo caso, parlando di sicurezza informatica e di cybercrime, la Reding ha detto di sostenere che l'Europa si debba dotare di un esperto di sicurezza che sappia coordinare le strategie dell'Unione Europea e sappia proteggere tutte le istituzioni dagli attacchi del cybercrime. Esiste già la ENISA, che è un'agenzia, la European Network and Information Society Agency, ma evidentemente, lo ammette la stessa Reding, tutto ciò non è sufficiente, ci vuole, dice, dobbiamo dotarci di un esperto di cybercrime che protegga e soprattutto coordini le strategie di tutti gli stati. Adesso una buona notizia che riguarda la libertà di espressione in rete. Il famoso, almeno famoso per chi frequenta molti blog o siti specializzati sulla rete internet, emendamento D'Alia è stato definitivamente emendato e sostituito da un provvedimento correttivo presentato dal deputato Cassinelli. Lo stesso D'Alia aveva ammesso forse di aver commesso un errore di valutazione, forse dovuto anche ad ignoranza del mezzo internet. Insomma, fatto sta che sulla rete D'Alia aveva suscitato molte critiche, mentre molti, fino a ieri, ma anche oggi, applaudono a Cassinelli che ha messo una pezza a tutto quello che poteva creare questo emendamento. Non riscendiamo in particolari tecnici che abbiamo affrontato in altre puntate, ma sicuramente questo è un provvedimento ben accolto dalla maggioranza di chi frequenta internet. Tra l'altro, Cassinelli è un deputato della maggioranza che fa parte del primo intergruppo parlamentare italiano 2.0, il primo gruppo di parlamentari che si occuperà di internet, e questa è sicuramente una buona notizia. Altre notizie arrivano dagli Stati Uniti. Microsoft e Verizon, che è uno dei principali operatori di telefonia cellulare americani, stanno valutando il lancio di un cellulare touchscreen che potrebbe arrivare sul mercato all'inizio del prossimo anno. Il nome in codice è Pink. Microsoft sarebbe coinvolta nel design, nella costruzione del software, nel design del software, mentre poi un altro produttore dovrebbe occuparsi della realizzazione del telefono, così come è stato per il telefonino di Google. HTC ha prodotto il primo telefonino, Google si è occupato del sistema operativo. A proposito di telefonini, a proposito di Android, Samsung ha presentato in settimana il suo primo prodotto con il sistema operativo di Google. Sarà un telefono touchscreen, arriverà in giugno e ancora non si conoscono particolari sul prezzo. Sempre Verizon e in questo caso Apple starebbero lavorando insieme da circa 6 mesi per preparare un iPhone Lite, quindi una versione più leggera, meno complessa dell'iPhone, e anche un tablet PC da commercializzare all'inizio del prossimo anno, quando scadrà l'accordo che lega la Apple con la AT&T, che fino ad oggi ha distribuito in esclusiva l'iPhone su tutto il territorio nordamericano. Quindi movimenti interessanti anche per il mondo della telefonia. La prossima settimana Microsoft dovrebbe rilasciare la cosiddetta release candidate di Windows 7, quindi la nuova versione di Windows, questo nuovo sistema operativo su cui sta puntando molto Microsoft dopo il di fatto fallimento di Vista, insomma, che ha suscitato molte perplessità negli ambienti, non solo tra i tecnici ma anche tra molti utenti finali. Quindi adesso l'azienda sta lavorando molto velocemente per arrivare ad una versione definitiva di Windows 7, e questa release candidate è di fatto una versione che precede quella definitiva. Quindi questo segnale, cioè che la prossima settimana verrà rilasciata su internet questa versione, ci indica che i lavori all'interno della Microsoft sono stati accelerati. Vedremo poi, insomma, quale sarà anche il risultato e come verrà accolto questo sistema operativo. Parliamo di una società sempre americana che si chiama Cable Vision Systems, una società specializzata nell'erogazione di servizi via cavo, che prevede di lanciare connessioni super veloci ad internet che permetteranno ad un utente di scaricare un intero film ad alta definizione, quindi pensate a quanti dati, in meno di 10 minuti. Il servizio verrà lanciato tra una decina di giorni, l'11 di maggio a New York, e prevede una velocità di connessione a 100 megabits al secondo con un abbonamento mensile di $100. Connessioni del genere sono molto frequenti in alcune città del Giappone, della Corea del Sud, un po' meno in Europa. In Nord Europa c'è qualche servizio del genere, ma in molti paesi del mondo, Italia compresa, sono ancora un miraggio, almeno per gli utenti finali. Dicevamo che questa società punta a far scaricare film in alta definizione. È un esempio, ma sicuramente quello della rete internet sarà il mezzo di comunicazione con cui vedremo la TV del futuro. Via internet in almeno due modalità: quella libera della cosiddetta web television, io ho un computer, un programma per navigare su internet e posso vedere la TV, oppure quella, diciamo, più blindata in un pacchetto in abbonamento chiamato IPTV. Esistono già anche in Italia offerte di questo genere ed esistono molte TV addirittura che hanno un ingresso di rete. Che cosa vuol dire? Che possono collegarsi direttamente ad internet. Questo, dicevamo, è il modo con cui la TV arriverà in futuro nelle nostre case. Probabilmente saranno meno diffusi pacchetti in abbonamento, ci saranno più contenuti cosiddetti on demand. Ad esempio, voglio vedere un film, pago per vedere solo quel film, non devo essere abbonato ad un pacchetto in abbonamento. Questo senza dubbio è il futuro, lo ha ribadito più volte recentemente anche l'amministratore delegato di Telecom Italia, Franco Bernabè. Sarebbe, dicono molti esperti, sicuramente un'idea molto buona investire su questo sistema, cioè sulla diffusione della rete internet. Oggi stiamo invece osservando e raccontando l'arrivo di un'altra tecnologia, purtroppo, e anche qua cito molti tecnici, una tecnologia nata già vecchia e, guardandola con gli occhi di oggi, potremmo dire obsoleta rispetto a quello che promette di fare la rete internet. Di che cosa parliamo? Parliamo del digitale terrestre. Così ne parla Andrea Ambrogetti, presidente del consorzio DigiTV. Partiamo da una premessa. La premessa è che l'Unione Europea ha deciso, per tutti i paesi aderenti all'Unione Europea, che il 2012 è la data in cui tutte le trasmissioni a cui siamo abituati, quelle che riceviamo dal 1954 ad oggi, siano trasformate in segnale digitale. Cosa vuol dire questo concretamente? Che il televisore di casa, i normali televisori di casa con la normale antenna, quindi non serve parabola né nient'altro, potranno ricevere il nuovo segnale solo se attrezzati, e cioè se avranno al loro interno o il ricevitore come gli ultimi televisori che da aprile lo hanno già all'interno, oppure avranno il decoder che viene appunto collegato al televisore. Nel mese di ottobre tutta la regione Sardegna è stata la prima regione europea a trasformato il segnale da analogico al digitale, e quindi tutti gli utenti e i cittadini oggi ricevono esclusivamente le trasmissioni attraverso il digitale. Il calendario che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato ha già visto altre due tappe, che sono la Val d'Aosta e la provincia di Trento, che hanno già migrato Rai 2 e Rete 4 esclusivamente in digitale, e ci si appresta entro il 2009 a concludere questa migrazione. Due tappe importanti che avvengono il 20 maggio a Torino e Cuneo e il 16 giugno a Roma riguardano proprio queste due grandi città, sostanzialmente Torino e Roma, in cui proprio in queste città Rai 2 e Rete 4, sempre le solite due reti che anticipano questo passaggio proprio per renderlo più accompagnato, per capirci, cesseranno le trasmissioni in analogico e saranno ricevibili solo in digitale. A ottobre e novembre tutte le reti in Piemonte e nel Lazio seguiranno la stessa strada. A queste si aggiungerà la Campania, per un 2009 che vedrà già il 30% della popolazione italiana passare ad adottare esclusivamente lo standard digitale. Questo era Andrea Ambrogetti, presidente del consorzio DigiTV. Stiamo parlando di digitale terrestre. Avete sentito che lo switch off, lo spegnimento delle frequenze analogiche per passare alle frequenze digitali, stiamo parlando di TV, è già avvenuto in Sardegna, in Valle d'Aosta, e avverrà presto anche in altre città. Quindi questo è un processo che coinvolgerà da qui al 2012 tutti i cittadini italiani, e quindi nonostante abbiamo detto e continueremo a dire che questa è una tecnologia già obsoleta, se confrontata alla rete internet e a tutto quello che la rete internet può già fare oggi e potrà fare in futuro, quindi è per questo che molti esperti ritengono sia più utile spostare molti degli investimenti sulla rete internet, nonostante ciò riteniamo giusto e corretto informarvi su quello che sta succedendo per cercare di capire come affrontare al meglio, anche banalmente senza prendere fregature, questa rivoluzione tecnologica, questo passaggio tecnologico. Per aiutarci, dopo la breve introduzione che ci ha fatto Ambrogetti del consorzio DigiTV, è con noi Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale, il nostro esperto di audio e video digitale. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Partiamo dalla TV di casa nostra. Abbiamo detto che ci vorrà un decoder per ogni televisore vecchio oppure una TV nuova. Poi parleremo anche dei videoregistratori, perché questo è un altro tema molto interessante, perché qualcuno si sta dimenticando forse dei videoregistratori, ma oltre ai decoder o ad una TV nuova, dobbiamo fare qualche trasformazione sull'antenna, perché c'è chi dice che non dovremo toccare nulla dell'antenna. In realtà come stanno le cose? Le cose stanno in termini che vanno ovviamente valutati di caso in caso, però qualche intervento sull'impianto d'antenna può essere che sia necessario farlo. Tipicamente in quegli impianti di antenna centralizzati che, come dire, per non avere disturbi filtrano soltanto le frequenze, alcune frequenze nelle quali ci sono i canali che sono poi distribuiti sull'antenna diciamo condominiale, quindi i canali che interessano. Tant'è vero che molte volte nei condomini, nelle riunioni, nell'assemblea di condominio, si decide magari di spendere qualche soldo in più per aggiungere quel canale o quell'altro canale che si vuol vedere che al momento non è distribuito. Ecco, in questo caso tutti i bouquet digitali che vengono inseriti su frequenze in un momento libero o comunque liberatesi, che sono filtrate dall'impianto centralizzato, chiaramente non vengono più ridistribuite e non vengono viste nelle case. Sono interventi poco costosi, perché più delle volte si tratta di regolare questi filtri, cambiare la frequenza e permettere alle frequenze nuove di arrivare in casa. Comunque un intervento di un antennista, diciamo da qualche 100, 200, 300 euro ecco, di spesa per qualche tutto il condominio, centinaio qualche euro, centinaio sì. di euro, è una cosa che può essere, che debba essere sostenuta, ma non sono interventi strutturali normalmente. Ecco perché, anche se in Lombardia ancora non c'è stato lo switch off, nemmeno lo switch over, poi spieghiamo qual è la differenza tra l'una e l'altra cosa. Ecco, nonostante ciò, io da un po' di tempo ho un decoder per il digitale terrestre, anche se guardo molto poco la TV, effettivamente alcuni canali non li vedo, e forse per questo motivo. Sì, assolutamente, perché Milano e la Lombardia sono ormai ampiamente coperti con tutti i principali bouquet, quindi sia quelli Rai che vedere MDMS, tutto, quella 7. Normalmente si dovrebbe vedere tutto, e se non si vede tutto probabilmente ci bisogna fare una piccola correzione all'impianto centralizzato. Dunque, si parla spesso di switch off, cioè di spegnimento delle frequenze analogiche per il passaggio completo al digitale terrestre. C'è anche però lo switch over. Sì, lo switch over è la fase, diciamo, che anticipa normalmente di un semestre, di sei mesi, lo switch off. Significa che mentre adesso c'è la doppia messa in onda, quindi tutti i canali sono messi in onda sia sull'analogico che sul digitale, incominceranno a spegnersi alcuni canali analogici, tipicamente sono Rai 2 e Rete 4, che vengono spenti e vengono trasmessi soltanto in digitale. Questo è fatto anche per stimolare, come dire, il passaggio al digitale in maniera un pochino più graduale. Si sa che gli utenti sono un po' pigri, magari gli italiani anche un po' più degli altri, quindi poi tendono a occuparsi e preoccuparsi del problema soltanto quando oramai non riescono più a vedere nulla. Ecco, per evitare che al momento di switch off ci sia un assalto ai negozi per aggiudicarsi il decoder perché di colpo non si vede più la TV, si anticipa con un paio di canali, che sono appunto Rai 2 e Rete 4, che passano al solo digitale, in modo tale che così in quel semestre le persone che vogliono vedere questi canali hanno comunque la garanzia di continuare a vedere tutti gli altri canali analogico, quindi un TG se vogliono vedere lo vedono tranquillamente, non restano tagliati fuori dal mondo, però hanno una spinta in qualche modo a occuparsi del problema, perché comunque, come abbiamo detto e come abbiamo visto, non sempre è semplice, o comunque se uno ha tanti TV in casa gli interventi che deve fare, ecco, sono molti. Sì. Dunque, abbiamo detto che per le TV o si passa ad una TV nuova, ma non è necessario, perché si può tranquillamente accoppiare ad ogni TV un decoder per ricevere il digitale terrestre. Abbiamo detto che non si possono fare degli interventi con un unico decoder poi distribuito sulle TV, perché quando si cambia il canale lì lo si cambia su tutte le altre TV. Assolutamente. Poi abbiamo parlato anche dell'antenna, altre cose che si devono fare o che si devono prevedere, insomma. Allora, un decoder per ogni TV, questo l'abbiamo detto, per ogni TV diciamo analogica che si vuole salvare. Sì. Ci sono delle soluzioni interessanti in alcuni casi, che sono dei piccoli decoder che sono già disponibili, che addirittura sono praticamente delle scatolette attaccate alla presa SCART direttamente, che vengono messe praticamente dietro lo schienale del TV. E quindi permettono di aggiungere la funzionalità di ricezione digitale al TV senza avere un box esterno visibile o da appoggiare da qualche parte. In molte situazioni, penso per esempio ai piccoli TV della cucina, delle camere da letto, delle camerette, dove magari lo spazio proprio per avere il box aggiuntivo non c'è, queste soluzioni che costano in realtà tanto quanto un decoder, sono di fatto un decoder digitale, però rimanendo attaccate dietro al TV danno molto poco fastidio e diciamo dal punto di vista almeno logistico non danno nessun problema. Ci vuole per un altro telecomando, giusto? Il telecomando sarà quello ovviamente del nuovo apparecchio, del nuovo decoder, cioè bisognerà accendere il TV con il telecomando del TV e quindi poi cambiare canale col telecomando del decoder, questo in tutti i casi. Oltre alle TV, in molte case degli italiani ci sono anche dei videoregistratori con le vecchie cassette VHS o, per i più moderni, dei DVD recorder con hard disk o senza hard disk, ma mi pare che adesso ormai tutti i DVD recorder abbiano l'hard disk. Anche questi dovranno avere, immagino, un ricevitore per il digitale terrestre. Ecco, qui il legislatore non è la prima volta, l'abbiamo detto tante volte a questi microfoni, si è dimostrato molto disattento dal punto di vista tecnico e tecnologico, non si è fatto consigliare bene. Ha in qualche modo normato l'uscita di scena dei TV analogici, che ricordiamo dall'inizio di aprile non possono più essere venduti, quindi se qualcuno in qualche negozio trova ancora qualche TV senza il tuner digitale, sappia che quel TV non potrebbe neanche più essere venduto, sì, non è regolare a norma di legge. Ecco, si è dimenticato il legislatore che invece il tuner analogico non c'è solo nei TV, ma c'è in molti altri apparecchi, per esempio tutti i videoregistratori, sia che siano analogici che digitali, quindi sia su VHS che su DVD recorder. Ecco, questi devono sintonizzare i canali per poterli registrare. Sì. Se non hanno la logica, quindi il sintonizzatore digitale all'interno, questi non possono più essere utilizzati per registrare autonomamente, ovviamente, i canali digitali. Quindi praticamente vanno fuori uso, oppure bisogna in qualche modo cercare di salvare anche loro associando un decoder, ma il sistema è molto macchinoso. Sì, sì, molto macchinoso, perché ad esempio la programmazione è quasi impossibile. Io non posso programmare il videoregistratore per registrare, che ne so, prima un canale e poi un altro. Diciamo che se già programmare un videoregistratore è un'operazione che è ritenuta da molti complessa, sì, in questo caso bisognerebbe programmare il videoregistratore per registrare dall'ingresso esterno alle ore che ci interessano e poi programmare il decoder esterno che va associato al videoregistratore, quindi non più un decoder per ogni TV e basta, ma un decoder per ogni TV più un decoder per ogni videoregistratore. E questo ovviamente bisognerebbe programmare anche il decoder per accendersi all'ora giusta e cambiare canale sul canale che ci interessa sempre all'ora giusta. Un'operazione che francamente riteniamo impossibile. Senti, grazie a Dio però esistono dei DVD recorder che sono in grado di sintonizzare i canali digitali e quindi sono già autonomi, funzionano perfettamente. Piccolo problema. Sono una quota parte in questo momento abbastanza trascurabile dei prodotti a scaffale, ecco, perché gli altri sono ancora in vendita. Quindi, questa è la cosa, quindi, che se capisco bene, se io voglio ad oggi comprare una TV nuova, io vado in negozio oppure online, cerco una TV che mi interessa, compro tranquillamente, perché diciamo che oramai tutte le TV a norma di legge dovrebbero essere tutte con decoder integrato. Sì, assolutamente. Se vado a comprare un videoregistratore, parentesi, non esistono più i videoregistratori a cassette, giusto? Esistono soprattutto i combinati, però non esiste un modello di videoregistratore a cassetta che comunque abbia il tuner digitale all'interno e possa quindi registrare dei canali digitali. Comunque in generale io posso ancora oggi trovare, come dite voi su AF Digitali, il pacco, cioè una truffa, perché io compro una cosa che fra qualche mese o qualche anno non mi funziona più. Allora, noi riteniamo che sia una truffa perché siamo ormai talmente a ridosso dello spegnimento delle frequenze digitali. Per esempio, non scordiamoci che in una grande regione come il Piemonte il 20 di maggio si entrerà nello switchover, quindi verranno spenti Rai 2 e Rete 4, quindi siamo in una situazione ovviamente incredibilmente a ridosso dello spegnimento delle frequenze analogiche. Vendere oggi, lasciare a scaffale oggi dei prodotti che fra poche settimane o fra pochi mesi non potranno più registrare autonomamente è in qualche modo vendere un prodotto non conforme, come dice la legge. Quindi è lecito che l'utente si aspetti che questo DVD recorder registri per sempre tutti i canali TV, invece questo non lo potrà fare molto presto. È chiaro che questi prodotti dovrebbero essere dirottati immediatamente su quelle nazioni, anche d'Europa, che non sono così prossime a uno switch off, e quindi per cui, cioè, questi prodotti sono perfettamente funzionanti. Da noi oramai sono prodotti che si possono considerare assolutamente obsoleti. Ah! 2024. Questa è la seconda parte di 2024, bentornati, seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate anche online. Dalla prossima settimana, dal lunedì pomeriggio, potete scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Come sempre vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete scriverci, è 2024, scritto in cifra, quindi 2024, et radio24.it. La scorsa settimana abbiamo parlato di tecnologia e competitività delle imprese. Sappiamo che l'Italia è uno dei paesi col più basso rapporto tra spesa in tecnologia e prodotto interno lordo, ma ci sono molti casi in cui invece l'investimento crea le condizioni per essere più competitivi sui mercati internazionali. Alcune aziende se ne sono accorte e esistono sul territorio italiano. Per questo è nato un nuovo premio Innovazione ICT che verrà lanciato in occasione di Smao Business Park Padova, mercoledì e giovedì prossimi, appunto a Padova. Per questa edizione sono state scelte 14 aziende del Veneto. Smao, come alcuni di voi sapranno, si è riorganizzato con una serie di appuntamenti sul territorio e quindi il premio verrà poi riproposto anche a Smao Bologna il 18 e 19 giugno e in quella occasione verranno esaminate alcune candidature di imprese dell'Emilia-Romagna. Ci sarà poi una selezione a livello nazionale in occasione di Smao Milano in settembre. La cosa interessante è appunto che ci si candida, quindi qualsiasi azienda che ritiene di aver capito come innovare e utilizzare le tecnologie può inviare una segnalazione a Smao. Tutte le informazioni sono appunto sul sito internet di Smao, smao.it. Adesso parliamo ancora di digitale terrestre, ma come vi dicevo introduciamo un altro elemento, cioè il satellite. E prima di parlare di quello che succederà in Italia nella fase di sviluppo e di diffusione del digitale terrestre, che prevederà una parte di canali anche sul satellite, facciamo una panoramica. Recentemente Astra ha presentato una serie di numeri sulla diffusione della TV via satellite, ma anche con gli altri sistemi di trasmissione, quindi digitale terrestre, IPTV, cavo, eccetera, eccetera. Ne abbiamo parlato con Christoph Limmer di Astra. If you talk about TV and focus on the European market, you realize if you see the development over the last four years. Se parliamo di televisione e guardiamo al mercato europeo, negli ultimi quattro anni il satellite è stata l'infrastruttura che è cresciuta di più. Dal 2004, quando c'erano 55 milioni di case collegate al satellite, fino ai 72 milioni di oggi. Il sistema di ricezione più importante rimane quello terrestre, con più di 90 milioni di case, ma questo comprende una buona parte di sistemi analogici, che possono ricevere solo un paio di canali. In particolare nell'Europa dell'Est, ma anche in Italia, dove ci sono ancora 11 milioni di case che ricevono solo un segnale analogico. L'IPTV è una modalità di ricezione che è decollata recentemente e che ha numeri molto bassi se confrontata con altri sistemi. But already 7 million homes in Europe are receiving their TV signals exclusively via IP signals. Ma già 7 milioni di case in Europa ricevono il segnale televisivo esclusivamente attraverso un segnale IP. Il mercato principale è la Francia e noi pensiamo che la IPTV diventerà un mezzo di trasmissione rilevante se confrontato con la TV via cavo, il satellite e il digitale terrestre. Soprattutto, almeno nelle prime fasi, nelle aree urbane dove compete con le offerte via cavo e le offerte triple player. Mainly at the beginning in urban areas where they compete against the cable offerings, triple play offers. E questo è lo scenario europeo dei sistemi con i quali la TV arriva nelle nostre case. Sta crescendo anche la tecnologia satellitare, stanno crescendo le tecnologie collegate ad internet, quindi la IPTV. Dicevamo poco fa che il satellite sta tornando in gioco prepotentemente anche in Italia, visto che si parla sì di digitale terrestre, ma in qualche modo si parlerà molto presto anche di satellite. Per quale motivo e soprattutto che cosa c'entra il satellite con il digitale terrestre? Ancora Gianfranco Giardina. Beh, c'entra perché il nuovo piano di diffusione terrestre, appunto, delle frequenze digitali non prevede una copertura completa di tutto il territorio, tutta la popolazione. un po' per motivi prettamente geografici. Sappiamo che anche la diffusione del segnale analogico in alcune zone è largamente imperfetta, soprattutto zone di montagna, zone impervie, è largamente imperfetto, addirittura inesistente. Quindi per garantire la ricezione del segnale televisivo da parte di tutta la popolazione, che è un diritto che credo sia assolutamente da affermare, è stato pensato di utilizzare anche la messa in onda via satellite, che ovviamente cade a pioggia su tutto il territorio e quindi non ha questi problemi di diffusione. Ovviamente qualcuno potrebbe obiettare, ma allora perché si è fatto il digitale terrestre, perché certo, non facciamo tutto via satellite? Beh, va detto che il satellite, anche se in alcune zone viene diciamo tollerato, ovviamente perché non esistono alternative di ricezione, per pensare a una nazione completamente inondata di parabole, perché questo poi diventa, è francamente impensabile, anche se vogliamo una visione un po' passata. La diffusione terrestre, tanto più che gli impianti d'antenna già ci sono, perché sono gli stessi della diffusione analogica, certo, vengono riutilizzati, quindi non c'è nessun problema. Quindi la diffusione terrestre è sicuramente una buona soluzione. Il satellite nasce, e in questo caso non nasce, rientra in gioco anche con le stessi canali del digitale terrestre per coprire questo 4%. È stato formato un consorzio che si chiama TV, scritto proprio per esteso, T-I-V-U, sì, che è un consorzio formato da Rai, Mediaset e La 7, tutti gli altri broadcaster che vorranno aderirvi, che nasce proprio come la piattaforma digitale in generale. Quindi TV sul digitale terrestre e TV Sat, così si chiamerà l'analoga piattaforma sul satellite. Questa piattaforma nasce con delle premesse che sono quelle che abbiamo detto e nasce però con diciamo delle prospettive che appaiono abbastanza chiare a un osservatore attento. Siccome non è possibile trasmettere via satellite non criptato. Certo. Questo perché se la RAI ha i diritti, faccio un esempio, per una trasmissione solo per l'Italia non può diffonderla a pioggia su tutta Europa. Quindi c'è bisogno di criptare il contenuto e dare ai cittadini italiani che ne facciano richiesta una card che permetta la visione di questi programmi. Per fare questo ovviamente è stato scelto un sistema di crypting che è quello Nagra, che è lo stesso utilizzato dalle carte Mediaset Premium del digitale terrestre, quindi c'è una certa contiguità tra le due piattaforme, ma questo tutto sommato è anche giusto, e per cui in un prossimo futuro, ma un futuro molto prossimo, si parla che le trasmissioni di TV Sat possano partire a giugno. A giugno, sì, sì. Quindi molto presto. Quindi in questo futuro prossimo chiunque in regola col canone ovviamente Rai può fare richiesta di questa card, ottenerla ai soli costi di emissione, qualche euro, ecco, non di più, e infilarla nei ricevitori che ancora si sta aspettando di capire bene quali siano. Infatti qua c'è un problema, perché ancora la distribuzione non ce l'ha in mano, non sì, sono in vendita, anzi direi che dalle informazioni che abbiamo mancano, permettete il gioco di parole, mancano informazioni, cioè nessuno sa bene quando arriveranno, chi saranno i produttori, quale sarà il prezzo di questi ricevitori, ma comunque sia presto si dovrebbe sapere qualcosa. Su questa piattaforma si vedranno tutti i canali del digitale terrestre, quindi tutti i canali gratuiti in questa fase. È pensabile che, visto che la carta e il modulo di crypting è lo stesso poi della TV a pagamento digitale terrestre, possano essere inseriti con molta facilità in un futuro molto prossimo anche i canali a pagamento sulla piattaforma via satellite, andando di fatto a creare una nuova piattaforma, certo molto più debole rispetto a Sky, ma in competizione comunque anche con l'offerta di Sky, perché il satellite offre ovviamente molta più banda del digitale terrestre, quindi non c'è più il problema delle frequenze, non ci sono più i problemi, sì, sì, dei canali, non c'è più il problema dell'affollamento, si possono mettere quanti canali si vogliono, basta acquistare la banda, ma la banda è largamente disponibile, se vogliamo anche abbastanza economica, a basso costo, sì, esatto, e quindi assolutamente è pensabile che nasca questa piattaforma alternativa. Il che è una bellissima notizia, perché insomma Sky ha gestito la pay TV satellitare in maniera diciamo quasi esclusiva, se non esclusiva, per molto tempo, e un nuovo entrante da questo punto di vista è assolutamente una cosa interessante per la pluralità dell'offerta e anche per stimolare un po' di giusta competizione che magari farà anche scendere qualche prezzo, perché no? Quindi questo è il motivo per cui il satellite c'entra con il digitale terrestre. Siete all'ascolto di 2024, questa è Radio 24, ci fermiamo per un minuto, continueremo ancora su questo tema tra poco perché vogliamo concludere questo scenario che ci accompagnerà per i prossimi anni, in questa trasformazione digitale anche della TV. Oramai è rimasta solo la radio che continua ad essere analogica, ma anche di questo abbiamo parlato più volte, non ci sono purtroppo molte novità per la trasformazione digitale anche dei segnali radiofonici. Quindi abbiamo capito a che cosa serve e perché c'entra in qualche modo il satellite. Nasce come esigenza per coprire queste aree ancora non raggiunte dal digitale terrestre, che probabilmente non saranno mai raggiunte dal digitale terrestre, e la card e il relativo decoder serve per problemi di carattere legale, cioè io non posso via satellite mandare gratuitamente tutti i programmi perché alcuni hanno dei diritti solo per il territorio, quindi devo per forza fare questa trovare questa soluzione. Sì, ma la soluzione in realtà era già stata trovata mettendo i canali Rai, Mediaset e La 7 su Sky. Sì. Cioè, oggi... Però uno potrebbe obiettare e dire perché chi vuole vedere gratuitamente i programmi del digitale terrestre, non essendo raggiunto da rete terrestre, deve per forza abbonarsi a Sky. Ma diciamo così, una soluzione a costo zero sarebbe stata quella di creare semplicemente delle card Sky con un abbonamento modificato, Un abbonamento gratuito che permette di decrittare soltanto i canali gratuiti, e questa sarebbe stata un'operazione di vera garanzia, no? Lasciando ovviamente i canali a pagamento solo agli abbonati paganti Sky. Certo. In questo modo la piattaforma c'era già. La volontà di creare una nuova piattaforma fa pensare a qualche cosa che non sia solo per coprire questo 4%, perché se no la soluzione c'era già in casa, già pronta. Tu dici, è sospetta questa cosa. È per questo che ci sarà motivo di competizione, di dibattito politico sicuramente. Faccio una domanda da utente, seppure io mi trovo anche in una posizione scomoda, perché giustamente alcuni ascoltatori si lamentano che ci occupiamo troppe volte di TV, di televisione, però questo è uno strumento utilizzato dalla maggior parte delle persone. Dicevo, sono in una posizione anche piuttosto scomoda perché a me della TV interessa veramente molto poco, la guardo molto poco, quindi, però mi sembra che sia un servizio utile per molti dei nostri ascoltatori. Faccio la domanda da utente. È probabile quindi che io debba avere il decoder per il digitale terrestre, il decoder per Sky, se voglio essere abbonato Sky, e addirittura questo altro decoder se lo scenario sarà quello della creazione di una seconda piattaforma televisiva via satellite? Sono ipotesi per cui dovrebbe avere una bella sfera di cristallo. Visto che si parla di decoder unico, certo. Mi sembra che qua stiamo andando verso una nuova... Stante le affermazioni fatte finora, in realtà TV e TV SAT, quindi il digitale terrestre e il digitale satellitare copia del digitale terrestre, dovrebbero portare gli stessi canali. Quindi sarà una scelta libera. Chi ha già l'impianto di parabola installato potrà scegliere magari di prendere il decoder TV SAT, vedere attraverso TV SAT tutti i canali, e in questo modo magari vederne anche qualcuno in più, perché probabilmente il decoder permetterà di vedere qualche canale in più. Però è certo che chi ha il TV digitale col digitale terrestre già integrato, quindi un nuovo TV, non avrà alcun vantaggio ad avere un box in più, perché col digitale terrestre in teoria non dovrebbe averne bisogno, e non esistono in questo momento TV abilitati alla ricezione delle trasmissioni TV SAT autonomamente. Quindi con un nuovo TV si può stare anche senza decoder. Con un vecchio TV un decoder ci va per forza. Dovendo aggiungere un decoder, diciamo, si potrà anche scegliere, per chi ha già l'impianto satellitare, di passare direttamente a TV SAT invece che TV. Il segnale arriva. Sì. Perché, senti, è un abbonato Sky... Un abbonato Sky in realtà in questo momento è il meno interessato allo switch off di questo mondo, perché in questo momento normalmente un abbonato Sky guarda tutti i canali televisivi tramite Sky, quindi anche Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, la 7. Probabilmente, adesso non c'è ancora un'ufficialità, ma è abbastanza certo che da giugno, sì, comunque dall'estate, non ci saranno più i canali, ecco, né di Rai né di Mediaset. Si aspetterà probabilmente qualche mese per permettere alla gente, sì, di prendere il decoder alternativo, ma sembra proprio che Rai e Mediaset ritirino i propri canali dal bouquet di Sky e li trasmettano sul proprio bouquet. È anche ragionevole, in fondo Rai e Mediaset e la 7 che trasmettono criptato sul bouquet di Sky di fatto fanno un grande favore a Sky, perché allargano comunque l'offerta di Sky e permettono alle persone di usare soltanto il telecomando di Sky invece che, sì, il proprio. Quando questi canali verranno in qualche modo levati dal bouquet di Sky e spostati sull'altra piattaforma, tutti i possessori di Sky dovranno preoccuparsi di colpo del digitale terrestre, perché sennò non verranno più i canali principali. E quindi anche lì non è che gli abbonati di Sky siano al sicuro da ogni modifica, come si sentono in questo momento, non è assolutamente vero. E comunque anche per Sky vale il solito principio che se ho 5 televisori in casa e voglio vedere soltanto tramite Sky devo avere 5 decoder, e lì con un aggravante, anche 5 card, devo quindi fare abbonamenti, ma un abbonamento con più card che costa qualcosa di più. Sì, sì, in questo sicuramente Sky non favorisce la molteplicità di TV in una casa. Addirittura un ascoltatore ci ha scritto recentemente dicendo: io ho 6 TV, cosa devo fare? Poi si pensa sempre alle TV, ma ci sono anche altri apparecchi oltre a DVD record, ma ci sono i tuner dentro i computer, le schede tuner dentro i PC. Le TV portatili, ce ne sono tante ancora che qualcuno usa, i piccoli TV. Quindi ci sono tanti apparecchi che in questo momento devono essere abilitati al digitale terrestre, se non lo sono. Senti, quando parliamo di digitale terrestre, parliamo anche di alta definizione oppure no? Sì, parliamo anche di alta definizione dal punto di vista, diciamo, prettamente teorico, ma anche pratico. L'alta definizione è già stata sperimentata con gli europei e i campionati europei di calcio scorsi, con una serie di eventi, la Champions League, eccetera, eccetera. Rai in alcune aree selezionate ha già trasmesso in alta definizione, devo dire, con ottimi e splendidi risultati. Ovviamente la banda occupata dalle trasmissioni in alta definizione è molto importante, diciamo equivalente a 3-4 canali a standard definition, e quindi in questo momento dove le frequenze sono una risorsa ancora critica, perché ancora abbiamo sia le frequenze analogiche che quelle digitali, è difficile pensare a un lancio dell'alta definizione in grande stile, mentre quando sarà completato lo switch off, almeno in alcune aree, e lì si potrà pensare a una messa in onda in maniera regolare di trasmissioni in alta definizione. Dal punto di vista della produzione, diciamo che buona parte delle strutture sono già pronte. La stessa Rai ha già dichiarato di avere 4-5 regie mobili già perfettamente attrezzate per l'alta definizione. Addirittura quelle mobili più delle regie fisse, e questo è il motivo per cui in alta definizione in questo momento sono sempre stati fatti eventi spesso sportivi, esterni. Però tutte le produzioni internazionali oramai vengono fatte in alta definizione, tutti i grandi eventi, i film sono largamente disponibili in alta definizione, Sky già li mette in onda ampiamente sui suoi canali in alta definizione, quindi è assolutamente pensabile e ragionevole che se non verrà mantenuta la prima scadenza affermata lo scorso anno, cioè l'estate del 2009 per la partenza delle trasmissioni regolari in alta definizione, sicuramente diciamo nel corso del 2010 queste partiranno, quantomeno nelle aree che avranno già fatto lo switch off, che saranno ovviamente il Trentino, il Piemonte, il Lazio, e nel primo semestre del 2010 anche aggiungiamo la Lombardia, che appunto arriverà proprio in questa fase, e tutto il resto del Piemonte orientale che ancora non verrà toccato in questa fase. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi per questa panoramica. Ci sono degli spunti che ci porteremo dietro anche nei prossimi mesi, perché appunto questa fase di switch over e switch off è molto lunga, quindi molti ascoltatori avranno necessità di altre informazioni. Poi insomma seguiremo anche l'evoluzione tecnologica. Certo, sì, è lunga perché finisce nel 2012, ma siccome è a macchia di leopardo, quindi incomincia a riguardare delle regioni e sarà tutta segmentata per regione, è lunga, ma per alcuni è già finita, per alcuni sta per iniziare, e quindi poi alla fine diciamo che tutta la fase tra l'inizio dello switch over e lo switch off, quindi lo spegnimento di tutto l'analogico, dura 6 mesi. Quindi l'esempio del Piemonte, di Torino, che entra in switch over il 20 maggio, prima della fine dell'anno, quindi a novembre, sarà in switch off. Quindi entro la fine del 2009 a Torino non si potrà più vedere la TV analogica, cioè tutti gli apparecchi analogici dovranno essere o affiancati da un decoder oppure diventeranno inevitabilmente obsoleti, inutilizzabili. Bene Gianfranco, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie mille. E così concludiamo questa puntata di 2024. Ci risentiamo la prossima settimana. Non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con la nostra redazione. È molto semplice, 2024@radio24.it. E vi ricordo anche che questa puntata, come del resto tutte le puntate di 2024, è disponibile sul nostro sito internet, sarà disponibile sul nostro sito internet anche attraverso il servizio podcast. Andate su www.radio24.it e potete trovare tutte le informazioni, tutte le istruzioni, anche nell'apposita pagina dedicata al podcast, tutte le informazioni per abbonarvi gratuitamente a questo servizio di erogazione di contenuti audio, nel nostro caso, ma trovate sul mercato anche contenuti video. Naturalmente appunto il nostro consiglio è quello di scaricare i nostri programmi per riascoltarli quando preferite. Io sono Enrico Pagliarini, grazie per averci ascoltato anche in questa puntata, ringrazio anche Luigi Borghi in redazione, ci risentiamo la prossima settimana sempre su Radio 24 nel pomeriggio del sabato tra le 15.30 e le 16.30. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.